Pronto? Pronto, ciao, pronto. Ci senti? Sì, posso parlare in inglese? Certo, certo. Senti, scusa, ti faremo prima le domande in italiano e poi te le traduciamo in inglese, così anche gli ascoltatori a casa che non capiscono l'inglese possono, quindi te le facciamo in italiano e anche in inglese. E puoi rispondere in inglese. Parli inglese e poi dopo... Sì, sì, tu parli inglese, sì, grazie. E noi te le facciamo proprio in tutte e due le lingue. Ok, quindi, okay. Sorry, we're gonna make the question in Italian, and then I will translate you, so, and then we can speak in English. But we need some time just to translate, okay? Okay. Okay, thank you. Okay, thank you. Allora, niente, faremo un paio di domande al compagno. La prima cosa che ti volevamo chiedere era di raccontarci la tua esperienza personale di lavoratore e come giudichi la situazione che vivi, che hai vissuto in questi anni. Okay, the first question is really general. Is what is the work situation in general in the place where you are, and in the southern Italy, in general? Okay, thank you very much for inviting me for the beautiful program. We are thank this your journalist group for inviting us and then putting us to air for people to hear our voice. And the problem here we are facing really, especially in Puglia region and Calabria, the migrants are living in a condition that is really deteriorating. And then we, the migrants, are at place where we need more help. That's why this committee of called Campania in Lota comes together to help us in the struggle against the work out the way in which we can be having document residence and then the transportation, because the work we are doing in most of the Puglia here is agricultural work, and it is one of the most important economical value of the Puglia region. And then the way we are surviving in Puglia is very horrible. When you go to ghetto, when it rains, it is horrible, and the condition in the ghetto is really deteriorating every day. People are living in a bad condition. There is no good health or sanitary purposes that are surviving us to live better life. So Comitato Liberatore come together to see that we are in a struggle to help us change the situation we are living in by integrating us to the Italian system. Okay, this integration is the best sustainable development in terms of migrants and then the citizens of Italy. Okay, so okay. Sorry, I have to translate, because if you talk a lot, then it's really hard to make the translation, okay? I'm gonna make the translation, then you can continue, okay? Thank you. Ok, in breve quello che è stato detto. Innanzitutto ringrazia molto dell'invito qui a parlare in radio. Ovviamente noi siamo lieti e siamo noi che ringraziamo lui, insomma, di questo contributo. In generale, insomma, introduceva il problema dicendo che il problema in Italia, soprattutto nelle regioni che individuava, appunto tra Puglia e Calabria, è che le condizioni di vita e le condizioni lavorative sono estremamente disastrose. E faceva giustamente anche un appello ad aiutare, a lottare insieme a queste situazioni, come Campagna e Lotta e come altre situazioni che lottano lì proprio sul territorio. Chiaramente faceva riferimento anche al problema nello specifico, ai problemi lavorativi che vivono, ma anche a problemi, insomma, che riguardano più la vita in generale, ovvero la questione dei documenti, la questione delle residenze e la questione dei trasporti, che sono poi problemi direttamente collegati alla questione lavorativa. Un altro dato importante è che come giustamente il compagno diceva, il settore dell'agricoltura è un settore estremamente sensibile e estremamente importante in Italia, e è inaccettabile, è incredibile che molte delle persone che portano avanti questo settore dell'economia, appunto, molto importante in Italia, vivano in queste condizioni. Le condizioni in cui di vita che si trovano a vivere sono, appunto, quelle che vengono definite dei veri e propri ghetti, con condizioni sanitarie, economiche e di vita che sono al limite proprio della sopportabilità. Ok, you can continue if you want. Okay, what we are looking forward is the politician to look forward towards our struggle to help us to help us to move us from this ghetto life, and then like Calabria, in Rosarno, and in Poggia ghetto, so that we can integrate us in the society by giving us contract works and then document in and residence. Because even you have document, you want to change the residence, it's very difficult to get. And how can you live in the ghetto? You said you want resident in the town while you are not living in the town. So resident in ghetto cannot be, it's not sustainable, and then it's very difficult to access and change your document. So people are in the country without document or without good contract, and the life is very difficult to live in. That's what we are looking forward to, for the politician to look into our case, and then we know that they can do it. That's why we, the Comitato Lavoratore, come with the slogan, we need yes. So this is the point that we are struggling for every now and then. We want to change the system what we are living in. The migrants are living in a horrible condition in Puglia, especially in Calabria, and okay, on most part of the Italy. Okay, I'm gonna make the translation. Quindi continuando, il compagno diceva che chiaramente riproponeva l'appello di, insomma, di solidarizzare e di aiutare nella lotta coloro che si stanno battendo ormai da mesi in Calabria e in Puglia. Citava appunto il territorio di Rosarno, che insomma è ben conosciuto anche da noi, ne abbiamo parlato diverse volte, e nel ghetto di cui parlava anche la compagna prima, che si trova nel Foggiano in Puglia. Le richieste base che si fanno sono quelle un po' che sono state dette anche in precedenza: lavorare con contratti di lavoro regolari e avere delle residenze. La domanda che si poneva giustamente il compagno è: com'è possibile continuare a portare avanti una situazione lavorativa vivendo in queste condizioni? Quindi com'è possibile continuare a lavorare in queste condizioni, vivendo in queste condizioni, e soprattutto per le persone migranti che vivono in questi ghetti, dove è impossibile prendere delle residenze, dove è impossibile regolarizzarsi in qualche modo? Si chiede proprio giustamente com'è possibile che questa situazione continui ad andare avanti così. Quindi le richieste base sono ovviamente quelle di una innanzitutto di un cambiamento radicale e sostanziale di tutto il sistema, e su questo ovviamente concordiamo, e poi diciamo anche soprattutto quelle più dirette e immediate, ovvero di avere dei contratti di lavoro regolari e di conseguenza, quindi prima, avere anche delle regolari residenze e delle condizioni di vita che siano insomma accettabili. Ok, you can go forward if you want. Okay, and it is, and this integration that we are talking of, and the Comitato Lavoratore is working towards in our struggle. This integration is the most sustainable lively that we should be yearning for all the time. Because if we are not integrated in the society, it will be very difficult for sustainability to come. And then this ghetto, and then ghetto life in Poggia and Calabria, since over years it is there and nothing changes, it continues there. People are coming, some are getting sick, some are getting mad. And migration is a natural phenomenon. Migration, nobody knows international migration, you have internal migration. So migration is wide. So the most important thing is the integration. Any migration in the world, when there is no integration, there is no sustainability. That's what we are looking for, and that's what we are struggling for. For the politician, the government and the police to look into our case and then give us documents, integrate us in the society. We can also produce other benefits, economic benefits or social benefits to the community, and live as one. Okay. Insomma, il compagno continua un po' la descrizione per quanto riguarda appunto le condizioni di vita nel ghetto, che abbiamo appunto descritte molto bene, e poi fa un focus molto importante proprio sulla questione in generale, sulla questione migrazione. Dice: la migrazione è un fenomeno, l'ha definito in questi termini, un fenomeno naturale. La migrazione è qualcosa che riguarda sia l'esterno che l'interno, come giustamente avranno notato loro appunto che si trovano nel luogo a combattere, a lavorare in quel posto. La migrazione non riguarda solo persone che vengono da fuori dei confini territoriali, ma è una cosa anche interna. E poi faceva appunto riferimento a questa fantomatica integrazione. Giustamente si chiede com'è possibile integrarsi in un sistema in cui la polizia in continuazione opera violenze e cerca di identificare in maniera violenta delle persone. Insomma, una considerazione generale sul sulla tanto scusate allora. Ok, adesso sulla questione dell'integrazione che appunto cioè nel sud Italia sta trovando delle situazioni insostenibili. We're gonna make another question, ok? Just a second. Sì, tornando sulla questione lavorativa, vorremmo chiedere al compagno che fa parte di quella fetta di lavoratori che hanno consapevolezza della propria condizione, che si auto-organizzano, quanti sono nel suo settore i lavoratori che si auto-organizzano e che lottano, quali sono gli obiettivi che si pongono in questo periodo e come si relazionano con tutta l'altra parte dei lavoratori invece che non si auto-organizzano, non partecipa alle lotte. Ok, the other question is basically is how many people is basically is how are you self-organizing the struggle in the last period and how many people is organizing with you? And how is the relationship with the other workers that that are not in this struggle, that are not struggling with you? Okay, the amount of people that are working with us is too many, because every year or every moment we are in this struggle, people come together. You know, every year it comes up. This year we see a lot of people come together, and then this is their problem the contract. Some their problem is document. Some their problem is, and most of us, our problem is resident, because we don't have any people. Think of the cold season is coming, like winter. So you live in a place where you don't have hot water to take bath. Like in Calabria region, Rossano, people go and then bring wood, they cut trees, and then come and put fire to make hot water, and then they will sell that hot water. If you want to take bath, you have to pay 50 cents to take hot water. And okay, then, okay, just sorry, I have to translate because it's complicated. Okay, praticamente rispetto alla prima questione, cioè ovvero quante persone si trovano a lottare ora in questo momento nel territorio in cui si trova il compagno, ovviamente la risposta è che ci sono tante persone che per diversi motivi incrociano le lotte dei lavoratori, soprattutto migranti che si trovano nel sud Italia. Chiaramente il numero è abbastanza alto e ovviamente c'è anche un ricambio molto molto alto, ovvero ogni anno aumentano e soprattutto vengono delle nuove persone, perché proprio come si diceva in precedenza i problemi di contratti di lavoro che non esistono, i problemi di documenti che non vengono dati e il problema soprattutto delle residenze fa sì che c'è anche un ricambio, diciamo, e una mobilità molto molto alta, ovvero molte persone sono costrette ad andare via per diversi motivi, delle nuove ne arrivano e questo l'abbiamo detto diverse volte, insomma anche un sistema che poi riesce a tenere oleato questo meccanismo di sfruttamento molto alto che si trova nel sud Italia. Ok, you can go forward. And over the years, Comitare Laboratory was working with the migrants to fill their condition, and then as time goes on, SICOBAS is an other organization that comes together, struggle organization that comes together to support Comitare Laboratory, and NABULOS also come together. We are having other agencies that are seeing our condition while we are demonstrating with Comitare Laboratory, who are really at our back, helping us to feel the situation and then helping us to make the struggle together. As the saying goes, who feels it knows it. Okay. Rispetto poi alla lotta, insomma citava diverse sigle come quella del comitato dei lavoratori e anche SICOBAS, che insieme stanno cercando appunto ormai da diverso tempo e diversi mesi di portare avanti delle lotte per supportare, proprio per stabilire una sorta di complicità insieme a questi lavoratori che appunto si stanno auto-organizzando da tempo per portare avanti queste lotte. Lo ripetiamo, le lotte riguardano principalmente conquiste anche abbastanza basilari come quella del contratto di lavoro, delle residenze e della possibilità di avere un documento regolare per poter portare avanti il lavoro. Ok, we're gonna make the last question. Sì, sì, infine volevamo solamente chiedere come era andata la manifestazione di oggi e basta. Okay, the last question is how was the demonstration today? What was your opinion about the demonstration today? The opinion in the morning when we started we have a lot of inspiration, but when we go for the police we cannot go and then see the costura, and they make barriers for us to see costura, and that one is a big problem for us. And then if the costura or any of the police officer is listening to this program, I'm begging him to extend our message to the costuras. Let them give residents, let them give a document to people. Because among the migrants, there are a lot of people who have been skilled in their head, but they cannot show it out because they are not integrated with the society. So it is loss of skill. Some people are having a lot of skill in them. So when they are integrated in the society, they can improve the society by putting them their skills together. Ok, rispetto alla la manifestazione di oggi, chiaramente la questione è stato che sono stati bloccati dalla polizia mentre durante il corteo, che insomma la polizia non gli ha permesso di andare verso, se ho capito bene, verso il Ministero dell'Agricoltura o qualcosa, insomma, qualcosa del genere. La prefettura, sì, dovevano andare verso la prefettura, però ci dava anche il, magari glielo richiediamo con calma, e insomma c'è stato questo blocco della polizia e che ovviamente loro hanno visto come un grosso problema, e poi insomma continuava un pochino giustamente sul fatto che appunto come si la questione che poneva è come si possono integrare delle persone che hanno diverse capacità, moltissime capacità, molte di più di quelle che insomma gli vengono permesse di portare avanti e di sviluppare quando sono qui, come si può parlare di integrazione quando c'è questo blocco proprio di vita rispetto alle persone che insomma appunto vengono spesso, come diciamo spesso, infantilizzate o trattate come persone che non sanno fare nulla. Scusate, microfono, mi sentite? Ok, e che invece appunto hanno molte più capacità di quelle che poi vengono presentate insomma dai vari media. Okay, if you want to tell something more? Yeah, I want to tell something like when the costura, let them open up to migrants, let them give them document, integrate them to society, and then with that we have in document a good contract, we can also pay taxes like other people are paying taxes. That is a benefit to the government. And if they don't give document, without document you cannot have contract. And then with document, when you have contract, you can pay taxes as an increment to the economy of Italy. So even the migrants going up and down, some are having skill going up and down in the street, that have no benefit for Italian government. It's just a loss. So let them give document so that the migrants will also contribute to the development of this country. Because migrants come here not to make terrorism or not to make extremism or not to make bombing, but to integrate with the society is most important thing that we are looking forward. Okay, thank you. Niente, in conclusione giustamente riportava la questione su appunto su un tema molto pratico, ovvero thank you very much for inviting us. Okay. Diceva appunto, cioè se la questura e le prefetture non danno i documenti, loro non possono avere dei regolari contratti di lavoro. Lasciare che delle persone migranti vivano in questa condizione di limbo è una cosa veramente assurda, e come giustamente diceva il compagno, questa situazione qui non va a beneficiare nessuno, ma molto probabilmente va a beneficiare solo le tasche di insomma di un sistema che di questo si nutre ormai da diversi anni. Okay, we wanna tell you really thank you for your contribute to this emission, and probably we're gonna call you or your comrades for in the next weeks. Okay. Thank you very much. Thank you.